Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Febbraio 1996, benvenuti alla prima serata del 46esimo Festival della Canzone Italiana. Buonasera ancora, maestro. Grazie Pippo per la linea, eccoci qua a Sanremo. No, no, ragazzi, ragazzi, sto scherzando. Benvenuti a tutti su Star Trek, Viaggio nella storia della musica. Questa sera Star Trek sarà in smoking, come si usava ai tempi, quando a presentare il Festival di Sanremo era appunto Pippo Baudo. Non c'erano i conduttori col culo fuori, diciamo così, no? Tutti scosciati così, no? E niente, questo vuole proprio essere un omaggio a quel Sanremo, Sanremo degli anni 70, degli anni 80, quando eravamo un po' tutti più bambini, ci emozionavano le canzoni melodiche, non si sapeva che cos'era la musica rap, Sanremo e così via, e questa trasmissione vuole proprio essere questo, principalmente un momento per ricordare quel periodo, anzi siete anche voi diretti interessati, se state ascoltando questa trasmissione potete anche interagire con la chat oppure con il nostro sito www.startrekonline.org, dove potete lasciarci i vostri commenti. Si parla di Sanremo di un tempo, un programma dedicato, vabbè, a un pubblico non tanto giovane, magari un po' più adulto, però non è detto che anche i giovani sappiano riscoprire melodie passate che insomma piacevano molto magari ai loro padri. Allora direi di non perdere tempo, di partire subito con questa bella trasmissione dove ascoltiamo un po' le canzoni di Sanremo. Non vi faccio sentire i vincitori del festival, ma in fretta ho selezionato degli artisti che a me piacciono molto, che a Sanremo diciamo hanno sempre ben figurato. Non mi sono ancora presentato, lo faccio ora. Buona serata a tutti da parte di Andrea, siamo in diretta 4 minuti primi dopo le ore 23, siete a bordo dell'astronave Enterprise e partiamo immediatamente con Sanremo Memories, e per Sanremo Memories c'è Baglioni. E lei, mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più, yeah. Saprei cosa dire adesso che, saprei cosa fare adesso che. Ovviamente le canzoni non saranno tutte così, perché sennò giustamente mi tirate dei nomi, mi mandate a quel paese. Era Claudio Baglioni, avete riconosciuto con questa canzone dal titolo Questo piccolo grande amore. Siete all'ascolto di Star Trek Sanremo Memories, visto che stasera in TV veramente non c'era niente, cioè tutti i programmi per teenagers. Mi ricordo il film di Tognazzi, I viaggiatori della sera, dopo una certa età, oltre a mandarli in pensione, gli uomini e le donne venivano anche eliminati, no? Vabbè, lì si scherza, però la televisione italiana veramente propone poco e niente, poi questa sera non parliamone veramente. Bravi, rimanete con noi perché vi facciamo sentire delle canzoni molto belle nel programma Star Trek Sanremo Memories con Andrea al microfono, direttamente dalla cantina, dove c'è un po' frescotto, però ci si diverte ad ascoltare musica. Dopo Claudio Baglioni mettiamo su qualcosa di un po' più allegro, diciamo, se no iniziano a arrivare le proteste. Anna Oxa, la ricordate? È lei, Anna Oxa, a Sanremo Memories. Guardava con sospetto, piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Scusate, ma il computer sembra avere una maledizione, la maledizione di Claudio Baglioni, non ho parole. Doveva partire Anna Oxa con una canzone, è ripartito ancora Claudio Baglioni, ma scusate, la maledizione del computer. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Star Trek con Andrea, ora mettiamo su veramente Anna Oxa, sennò molti di voi mi tirano dei nomi nei commenti, anzi potete commentare se volete. Vedete che arriva, ora c'è Anna Oxa, sempre estratta da un festival di Sanremo degli anni 80. È lei, è proprio lei, cioè nel senso che è lei, è il titolo della canzone. Siete a bordo dell'astronave Enterprise con Andrea e con Anna Oxa. Go! Let- manca solo che parte ancora Claudio Baglioni e siamo a posto. Beh, in effetti abbiamo avuto un po' di problemi tecnici questa sera. La bellissima e la bravissima Anna Oxa con questa canzone estratta da un festival di Sanremo degli anni Ottanta. Ora ascoltiamo ancora una canzone, se c'è tempo, perché tempo è tiranno. Poi faremo un piccolo stop di 15 minuti dove vado a mettere sulla pasta. Vi faccio un piatto di pasta alle 23:13 minuti, no, sto scherzando. Facciamo 15 minuti di stop, poi torneremo in diretta con sempre Star Trek Sanremo Memories, dove ascolteremo altre canzoni. Prometto, vi metterò in onda qualcosa di allegro. Marco Masini, dai, sto scherzando. Sono abbastanza allegro questa sera, non ho assunto sostanze stupefacenti né nulla. Sono solamente qua in cantina a divertirmi, a mettervi un po', insomma, di musica, spero vi piaccia. Le canzoni, a mio avviso, più significative, almeno quelle che a me piacciono di più, che ascolto di più in macchina, che hanno fatto storia nella discografia italiana. Riepiloghiamo ancora il tutto, siete all'ascolto di Star Trek, questa trasmissione che va in onda sul web, sul sito www.startrekonline.org. Se vi va potete anche lasciare dei commenti, dei messaggi, dei saluti. Beh, insulti no, dai, mettetemi, non so, una critica costruttiva, sennò andiamo male stasera. Ragazzi, ci sentiamo tra circa 15 minuti, vado a mangiare un po' di pasta, no scherzo, vado a selezionare altre canzoni, noi torneremo in diretta appunto tra un po'. Ciao ciao, anzi a presto, come si dice. Vi faccio ancora riascoltare la sigla con il mitico Pippone Nazionale, insomma, quando il Festival di Sanremo lo presentava lui. No, questa era la sigla di Star Trek. Eccola qua, questa è la sigla invece di Sanremo di qualche anno fa. Ciao, a dopo. Signore e signori, buonasera. Venti febbraio 1996, benvenuti alla prima serata del 46esimo Festival della Canzone Italiana. Buonasera ancora, maestro.